24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi la Grecia, con la Commissione Europea che frena sull'ipotesi di un nuovo piano di aiuti per Atene. Vi porteremo anche a Firenze per la chiusura del Festival dell'Europa e con l'avvicinarsi dell'estate vi parleremo pure delle bandiere blu vinte da 233 spiagge italiane. Anticiperemo le iniziative a Roma per la Notte Europea dei Musei e per il ciclismo vi racconteremo il lutto nel Giro d'Italia per la morte del corridore belga Wieland. This shows how strong and deep the financial interdependence is. In apertura del nostro notiziario, come dicevamo, la Grecia nell'ultimo anno Atene è riuscita a effettuare una riduzione di 7-8 punti del suo rapporto deficit-PIL, un risultato molto significativo per il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn che state ascoltando. Un risultato che non va sottovalutato, ha insistito Rehn durante una conferenza stampa a Strasburgo. Quanto ai progressi del paese su questo programma di risanamento avviato in cambio degli aiuti europei e dell'FMI, è prematuro, secondo Rehn, fare bilanci visto che il piano è triennale ed è trascorso solo un anno dal suo avvio. Ad ogni modo è appena iniziata una nuova ricognizione nel paese da parte dei tecnici di Europa, BCE ed FMI. Rehn ha osservato che sulla base delle loro valutazioni si potrà aggiornare il quadro del paese. Sulla situazione greca ascoltiamo ora l'intervento del membro italiano della board della BCE, Lorenzo Binismaghi. Ma non è nell'interesse di alcun paese uscire dall'euro, sarebbe una situazione drammatica, oggi ho detto sarebbe un suicidio politico, credo. Nessun capo di Stato, di governo riuscirebbe a sopravvivere di fronte alla propria popolazione una decisione di questo tipo. La Grecia deve attuare il programma che richiede una serie di misure che in questi mesi forse sono state ritardate e poi si vedrà quando si tratterà di tornare sul mercato se il mercato avrà sufficiente fiducia o no e altrimenti di vedere come aiutare la Grecia a mettere in atto appunto questo programma che poi porta al risanamento definitivo delle finanze pubbliche. Non teniamo più conto delle agenzie di rating, soprattutto nei paesi dove c'è un programma di risanamento col fondo monetario, riteniamo che le informazioni che abbiamo noi sono migliori. La Commissione europea ha intanto approvato il programma di riforme e misure economiche decise dal Portogallo per il periodo 2011-2014. Si tratta di un passaggio fondamentale per il via libera dei ministri finanziari al prestito di 78 miliardi di euro. E a Firenze si è chiusa la festa dell'Europa, economia, ma non solo nelle battute finali del festival. Un fantasma greco aleggia tra la Fontana del Nettuno e la Loggia dei Lanzi, stracolma di turisti. Intanto nel Salone dei 500, voluto dal Savonarola, tocca al banchiere europeo Lorenzo Binismaghi fustigare gli incentivi perversi dei mercati finanziari che, dice, possono persino spingere al default e minacciare a cascata l'intero edificio comunitario. Il pericolo di un suicidio politico è dunque reale, mentre si archivia il primo Festival d'Europa voluto per mettere in contatto istituzioni e cittadini, cresce l'urgenza di reagire con coraggio e solidarietà alle sfide che non si possono affrontare solo per via burocratica, ma impongono invece il primato della politica. L'immigrazione, naturalmente, ma anche l'Europa del lavoro e quella delle energie. Priorità al bivio tra declino e un'Europa più forte. L'Europa sin fronteras? C'è uno scollamento da sanare, spiega lo spagnolo Borrell, tra i giovani proiettati naturalmente in un sistema unico e gli adulti che hanno dimenticato le ragioni e i morti che hanno ispirato il progetto comunitario. L'insoddisfazione si supera anche mostrando solidarietà a chi è costretto a riforme coraggiose, aggiunge il polacco Buzek, presidente di un Parlamento europeo che è piccolo come quello degli stati che lo compongono. Più Europa, dice, non meno Europa, ed è scontato, anche se vero. Firenze non può dare risposte, ma forse è proprio questa piazza colma di ragazzi e turisti attempati che ricorda alla nostra memoria breve quello che potremmo anche rischiare di perdere. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore, Piazza della Signoria, Firenze. Scattano le sanzioni dell'Unione Europea contro la Siria con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nel mirino gli uomini del regime di Assad ritenuti responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile, 13 le personalità di spicco colpite con la misura del congelamento dei beni. Ora in Libia, dove la battaglia NATO si intensifica, 8 raid nella notte tra lunedì e martedì in sole 3 ore non segnano l'avvio di un'escalation, ma la volontà di mantenere alta la pressione sul regime di Gheddafi per minare la sua capacità di colpire la popolazione civile, ha rilevato una portavoce dell'Alleanza Atlantica. I missili NATO hanno colpito nella notte il compound di Gheddafi, le sedi dei media di Stato libici e anche la sede dell'Alta Commissione per l'Infanzia. Questo in particolare lo hanno riferito fonti libiche che hanno raccontato di 4 bambini rimasti feriti da vetri esplosi. 2 di loro sarebbero ricoverati in terapia intensiva. Questo è accaduto a Tripoli questa notte, mentre in marcia, senza sosta, continuano a muoversi i profughi che tentano di abbandonare il paese. Per ora sono quasi 750.000 le persone fuggite dall'inizio della guerra tra Gheddafi e opposizione. Di queste, oltre 5.000 sono bloccate alle frontiere con Egitto e Tunisia. Tutti questi dati sono stati diffusi dal responsabile delle operazioni umanitarie ONU, Valéry Hamon. Il paese è ridotto a un colabrodo, ma chi sta davvero cominciando a patire la fame e la sete sono, sempre secondo quanto ci racconta l'ONU, gli abitanti di Misurata. La città è sotto assedio da oltre 2 mesi. Alcune persone non hanno più cibo, acqua e prodotti di prima necessità. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo all'economia con la borsa, chiusura positiva per Milano. Chiusura e rialzo per le borse europee, spinte dalle attese di un nuovo pacchetto di aiuti per la Grecia. In più, la notizia dell'acquisizione di Skype da parte di Microsoft ha incoraggiato gli ordini in acquisto. Il FTSE MIB ha chiuso in progresso dell'1,47%. Sono rimbalzate le banche, anche grazie alle parole del presidente dell'ABI Giuseppe Mussari, secondo le quali le banche italiane non sono esposte sulla Grecia. Mediolanum è volata del 3% sull'ipotesi, tuttavia smentita, che la società ceda il 50% della quota che detiene in banca Esperia a Julius Baer. Sono andate bene le Fiat SPA, più 1,5%, beneficiando della notizia che la quota del lingotto in Chrysler potrà superare il 70% grazie a call option di cui dispone il lingotto. Hanno guadagnato terreno anche le Fiat Industrial, più 1,39%, le Enel, più 1,78% e le Enel Green Power, più 1,9%. TOD's, più 2%, ha aggiornato un nuovo massimo storico in vista dei conti trimestrali del 12 maggio. Da inizio anno le azioni della casa di moda hanno vantato un guadagno del 27,7%. Pirelli infine ha vantato un guadagno del 2,27% sull'onda di un report positivo della banca HSBC. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. 233 le spiagge italiane con la bandiera blu. La speciale graduatoria europea ha premiato 125 comuni. Ancora alla Liguria, per il secondo anno consecutivo, il record italiano delle bandiere blu d'Europa. Restano 17 i prestigiosi vessilli della regione assegnati dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale. Un primato contro i 16 della Toscana e delle Marche, i 14 dell'Abruzzo, i 12 della Campania fino ai 5 della Sardegna, ottenuto grazie all'ingresso di Loano sulla Riviera Savonese, che per la prima volta quest'anno beneficerà della bandiera blu d'Europa. Sul fronte delle province, proprio Savona risulta la più virtuosa d'Italia. Italia che nel complesso aumenta di 2 il numero di bandiere. Riconoscimenti seguiti anche in questo 2011 dai soliti chiarimenti sull'ultimo posto di regioni meravigliose come Sicilia e Sardegna. Il motivo è semplice: ai fini dell'assegnazione non conta solo la qualità dell'acqua, ma anche la gestione ambientale, i servizi offerti e la sicurezza, ha ribadito il presidente della sezione italiana della Fondazione, Claudio Mazza. Lavorare su un discorso di qualità sicuramente paga. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche Roma aderisce alla Notte dei Musei, l'iniziativa europea in programma sabato. Musei come le Scuderie del Quirinale, il Maxi, il Macro, Palazzo delle Esposizioni, Galleria Borghese e la Galleria d'Arte Moderna resteranno aperti gratuitamente dalle 20 alle 2 di notte. In programma anche concerti e iniziative culturali, come spiega Umberto Broccoli, sovrintendente ai beni culturali del Comune di Roma. Dire apriamo gratis vuol dire poco, dire invece che movimentiamo i musei vuol dire qualcosa di più, quindi nei musei ci saranno eventi, letture, spettacoli. Del resto la parola spettacolo viene dal greco skeptomai, che vuol dire tutto quello che si lascia vedere, quindi il museo si lascia mostrare. L'ultima edizione ha avuto 150.000 persone per strada. Dal 2008 a oggi abbiamo avuto, dal 2008 al 2009 il 15%, dal 2009 al 2010 il 9%, fino a oggi il 20% in più, in un momento in cui c'è crisi di turismo. Questo significa che la cultura non soltanto paga, ma la cultura è, non può essere, è una risorsa anche per l'economia del nostro paese. Non ragionare in questi termini vuol dire tradire, secondo me, il valore principale della cultura, che deve necessariamente essere di tutti. E a Düsseldorf l'Eurovision Song Contest, l'Italia torna in competizione dopo 13 anni con Rafael Gualazzi. Per saperne di più su questa storica manifestazione esce in libreria 12 Points di Emanuele Lombardini. Perché dedicare un libro allo Eurovision Song Contest? Sentiamo. Proprio perché gli italiani si erano dimenticati di questo evento. In questi anni è stato raccontato al pubblico italiano di tutto e di più sulla manifestazione, cose non vere, che andasse in onda soltanto sulle televisioni dell'est, che fosse un programma fatto solo per la Germania, che non aveva mai lanciato in tutta la sua storia nessun cantante, e poi che il programma non avesse appeal sul pubblico italiano. Come si fa a far innamorare il pubblico italiano di un programma se lo si mandava in differita a mezzanotte? William e Kate sono partiti per la loro luna di miele più volte rinviata, lo riferisce il sito di Sky News. Secondo il tabloid Sun, il duca e la duchessa di Cambridge hanno lasciato il loro cottage in Galles per una destinazione così segreta che nemmeno la neosposa ne è a conoscenza. Ora lo sport, ciclismo, occhi lucidi e tanta tristezza. Non è stata una partenza di tappa come le altre, quella di ieri a Genova. Un silenzio irreale a quarto dei mille al via della quarta tappa del Giro d'Italia. Annullate le musiche e i festeggiamenti, scarso anche il pubblico. Il giorno dopo la tragedia del ciclista belga Wouter Wieland, tutta la carovana si è stretta attorno al suo team, la Leopard, e alla famiglia dello sfortunato corridore. Angelo Zomenian, direttore generale del Giro d'Italia, al microfono di Dario Ceccarelli. Abbiamo condiviso un progetto di tappa che sta a cuore ai corridori e, esattamente come avevo promesso ieri, noi rispettiamo, il Giro rispetta la volontà dei corridori e le loro intenzioni. Sostanzialmente, dopo un attimo di raccoglimento ai blocchi di partenza, e poi i ragazzi si metteranno in bicicletta, tutti andranno verso quarto dei mille passando nei viali del Gaslini per portare 3 minuti di tentata serenità a quei bambini che soffrono. La Corte europea dei diritti umani ha respinto l'istanza presentata dall'ex presidente della Federazione internazionale dell'automobile Max Mosley. Sentiamo. Max Mosley, ex numero uno del mondo dei motori, ha perso la sua battaglia per costringere i mezzi di informazione ad avvertire gli interessati prima di pubblicare articoli riguardanti la loro vita privata. La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha stabilito infatti che un tale sistema avrebbe un effetto scoraggiante sui media. Il giudizio della Corte è l'ultimo atto della campagna lanciata dall'ex presidente della Federazione internazionale dell'auto dopo le rivelazioni sulla sua vita sessuale fatte nel 2008 da alcuni tabloid britannici. Mosley ha sempre contestato la legge sulla privacy del Regno Unito, che consentirebbe, a suo dire, la pubblicazione di notizie tali da ledere l'immagine di una persona senza darne preventiva notifica agli interessati. E tale è stata l'interpretazione sempre nel 2008 anche dell'alta corte britannica, che ha riconosciuto a Mosley un indennizzo di 60.000 sterline. I giudici inglesi stabilirono che la pubblicazione in prima pagina di un articolo e di fotografie riguardanti i suoi incontri con delle prostitute in un appartamento di Londra non era giustificata. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24. Per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo la seduta plenaria del Comitato delle Regioni. A Strasburgo l'Europarlamento discute di politica estera, sicurezza e difesa. Incontro tra i capigruppo, il presidente Jerzy Buzek e il presidente della Commissione europea Giuseppe Barroso sul futuro del bilancio comunitario. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.